Un buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati con il web notiziario di Radio Bullets, un podcast di notizie dal mondo, oggi dedicato alle notizie che arrivano dall'Africa e dall'Europa. Cominciamo dall'Africa con la Guinea Conakry, dove c'è stata una nuova e massiccia manifestazione ieri contro l'ipotesi di un terzo mandato per l'attuale presidente Alpha Condé. Secondo gli organizzatori hanno partecipato 1 milione di persone. I media riportano di una folla enorme che ha marciato verso lo stadio del 28 settembre, lo stesso che quasi esattamente 10 anni fa, proprio appunto il 28 settembre del 2009, fu teatro del massacro di quanti si opponevano all'elezione di un altro presidente, Moussa Dadis Camara. Se all'epoca ci furono 157 morti, ieri la situazione è rimasta tranquilla. Non era scontato, visto che un'analoga manifestazione 10 giorni fa si era conclusa con un bilancio di 9 morti negli scontri tra manifestanti e polizia. Si è concluso ieri a Sochi il vertice tra Russia e Africa. Dopo la prima giornata incentrata sull'economia, quella di ieri è stata la giornata più politica, quella in cui si è affrontata anche la questione della sicurezza e della lotta al terrorismo. La Russia attualmente esporta armi nel continente per un valore di 15 miliardi di dollari e ha sottoscritto diversi accordi di cooperazione militare con una ventina di paesi africani, tra cui uno con il Sudafrica, dove mercoledì sono arrivati aerei da combattimento russi per una esercitazione militare congiunta. Il presidente del Burkina Faso e attuale presidente del gruppo G5 Sahel ha invitato la Russia a partecipare alle operazioni nella regione. Nous soulignons l'impérieuse nécessité et l'importance de concertation régulière entre la Russie et l'Union africaine in vue di mettere un termine alla crisi libiana. Va notato tra l'altro che a margine del vertice rappresenta un padiglione per l'esposizione di armi. Botswana, è stato annunciato questa mattina il risultato delle elezioni presidenziali che si sono svolte il 23 ottobre. Il presidente uscente Masisi è stato rieletto dopo aver ottenuto la maggioranza dei seggi in Parlamento. Per il sistema elettorale vigente, vincitore è il partito che conquista 29 circoscrizioni, il limite minimo per avere la maggioranza in Parlamento. L'ex presidente Kama, da mesi in contrasto con il suo ex partito, ha comunicato di aver votato per il nuovo partito di opposizione, il Fronte Patriottico del Botswana. Repubblica Democratica del Congo, il presidente Kabila potrebbe ripresentarsi alle elezioni nel 2023, una volta concluso il mandato dell'attuale presidente Félix Tshisekedi. Lo ha detto ieri il coordinatore del Fronte Comune per il Congo, una piattaforma a cui è affiliato Kabila, che sostiene che non c'è nessun impedimento costituzionale a che ciò avvenga. Attualmente Kabila è senatore a vita, secondo la legge votata nel 2018, poco prima di lasciare il potere. Gabon, cresce la protesta dopo le accuse di stupro e pedofilia nei confronti di un uomo d'affari legato agli ambienti del potere locale. L'uomo è accusato di aver avuto numerosi rapporti sessuali con ragazzine tra i 13 e i 15 anni che venivano portate al suo domicilio. L'Interpol ha emesso un mandato di cattura internazionale. Tanzania, 4 imprenditori cinesi accusati di ritardare volutamente lavori di costruzione di 2 diverse infrastrutture pubbliche per le quali avevano già ricevuto anticipi economici, sono stati arrestati dalle autorità. Il governatore della regione, ha detto il suo portavoce, ha ordinato gli arresti affinché ciò serva di esempio ad altri imprenditori. La misura, tra l'altro, è curiosa: passeranno ogni notte in carcere, ma la mattina andranno a supervisionare i cantieri e verranno rilasciati solo quando i lavori saranno tornati in linea con la tabella di marcia prevista. Gran Bretagna, il Partito Laburista deciderà oggi, dopo le comunicazioni dell'Unione Europea, se voterà o meno a favore delle elezioni anticipate proposte ieri da Boris Johnson per il 12 dicembre. Il leader Jeremy Corbyn ha spiegato alla BBC che non intende andare al voto se non sarà chiaro che l'ipotesi di un'uscita senza accordo è definitivamente accantonata. Tomorrow the European Union will decide whether there's going to be an extension granted or not. That extension will obviously encompass whether there's a no deal or not. Let's find that out tomorrow. Il voto al Parlamento britannico sulla proposta Johnson è previsto per lunedì. Intanto, sempre in Gran Bretagna, continuano le indagini sulla morte dei 39 migranti, tutti, hanno detto le autorità di nazionalità cinese, rinvenuti all'interno di un camion frigorifero mercoledì. Gli inquirenti hanno appurato che il container dove erano rinchiuse le vittime è arrivato via nave alla porto in provenienza dal Belgio e che la motrice irlandese l'ha agganciato poco prima della scoperta dei cadaveri. La morte dovrebbe quindi essere sopravvenuta proprio in Belgio, al porto di Zeebrugge, dove il camion è rimasto fermo almeno 10 ore. La polizia infatti esclude che le vittime siano state fatte salire a bordo in Gran Bretagna, ma anche l'autorità del porto di Zeebrugge sostiene che non possono essere salite a bordo poco prima della partenza, visto che i camion vengono sigillati all'arrivo e restano sempre sotto controllo delle telecamere. A meno che di non ipotizzare complicità tra i sorveglianti del porto, l'imbarco delle vittime è avvenuto precedentemente. Non ci sono ancora informazioni su chi abbia portato il rimorchio fino al porto belga. La società proprietaria, con un comunicato stampa diffuso ieri sera, ha reso noto di aver fornito tutte le informazioni necessarie, compreso il nome di chi ha affittato il rimorchio, alle autorità della contea di Essex. Il premier greco Mitsotakis ha annunciato ieri l'intenzione del suo governo di ridurre l'IVA sulle transazioni immobiliari al fine di rivitalizzare il mercato delle costruzioni. Le nuove case costruite a partire dal 2006 e quelle ancora da costruire saranno esenti dalla pesante imposta del 24% del valore, che è di 20 punti superiore a quella per le case vecchie, ferma al 3%. In questo modo il premier spera di ridurre il numero delle case invendute e stimolare la domanda per nuove costruzioni. In Grecia, nonostante un rialzo della domanda, soprattutto ad Atene, il mercato immobiliare ha subito gravi perdite dopo la crisi del 2008. Germania, l'NPD sta valutando di darsi un nuovo nome per togliersi di dosso il marchio di partito nazista, pur senza rinunciare a nessuna delle sue idee. E quanto emerge da un documento rilasciato in questi giorni e circolato però durante una riunione a porte chiuse del partito che si è svolta a fine settembre a Berlino. Nella riunione il presidente del Nationalpartei Deutschland, Frank Franz, ha ammesso che i risultati del partito sono al minimo storico, e lo si è visto nelle ultime tornate elettorali, ma che invece le loro idee sono sempre più nel dibattito politico pubblico, però veicolate da Alternative für Deutschland. Per questo, dice Franz, il movimento neonazi deve reinventarsi, i temi proposti sono l'ambientalismo di destra e la difesa della classe media e del ceto operaio, e riappropriarsi di quel consenso, anche se necessario, cambiando nome. E a proposito di Alternative für Deutschland, per la seconda volta è stato impedito a Bernard Lucke, cofondatore dell'Alternative für Deutschland e docente di economia, di tenere lezione all'Università di Amburgo, dove è tornato a insegnare all'inizio di questo semestre. Lucke, che aveva lasciato il partito dopo essere stato scalzato dall'ala più dura guidata da Frauke Petri, a sua volta poi scalzata da un'altra ala ancora più di destra, è accusato di aver legittimato con la sua faccia da cittadino medio e la sua aura da professore un movimento che ha rimesso sulla scena politica idee razziste e disumane, come le ha definite Karin Kuropka, presidente del comitato studentesco. Il governo della regione Bruxelles ha approvato ieri il ruolino di marcia per il pacchetto clima sulla riduzione delle emissioni e l'uscita totale dal carbone entro il 2050. Tra le misure previste, l'interdizione della circolazione delle vetture a benzina e gas nel 2035 e diesel già nel 2030 e negli anni precedenti l'aumento della zona a traffico vietato della capitale. Si conclude con il suono della tromba e i saluti militari il breve video, poco meno di 2 minuti, che in Portogallo ha portato alle dimissioni il generale Carlos Perestrelo, comandante operativo di Madeira, accusato per l'uso non corretto di mezzi militari. Il video, condiviso sui social network, filmato mesi fa ma reso pubblico solo questa settimana, mostra il generale vestito con abiti da golf e accompagnato da altri 3 golfisti su un campo di Madeira. I 4 sono circondati da un drappello di soldati e da 2 cannoni, di cui i soldati spiegano il funzionamento per poi far partire un colpo che si spera fosse a salve. Finita la dimostrazione, il generale e i suoi amici tornano a giocare, i militari salutano sull'attenti e se ne vanno. Il governo ha comunicato che il contrammiraglio João Dores Aresta ha prestato ieri giuramento a Lisbona in qualità di nuovo comandante operativo e arriverà a Madeira nelle prossime ore. Secondo le ricerche, le 5 maggiori compagnie petrolifere o associazioni di industriali hanno speso oltre 250 milioni di euro in attività di lobby nell'Unione Europea a partire dal 2010. In tutto, le maggiori 5 società hanno investito 123,3 milioni in attività durante quel periodo, secondo rapporto che è stato pubblicato ieri. I dati economici erano già noti da mesi perché sono nel registro pubblico dell'Unione Europea, ma il cartello di associazioni che ha presentato i documenti rende noto anche il numero degli incontri con i rappresentanti della Commissione Europea, 327 dal 2014, anno di insediamento di Jean-Claude Juncker, cioè sottolineano più di uno a settimana. Il rapporto completo lo trovate sul nostro sito.

Questa strana ma riconoscibile versione The Pink Panther di Henry Mancini, qui riletta da Quincy Jones, siamo arrivati giusto in tempo alla pubblicità. Stanno per scoccare le 9:30 minuti, si rientra con la rassegna stampa e si proseguirà con la programmazione dei 103.1. A tra poco! Segna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Ed eccoci di nuovo insieme alle 9:33 minuti, si comincia con la rassegna stampa dei quotidiani odierni, titoli di cronaca che troneggiano sulle prime pagine dei quotidiani, dei cosiddetti giornaloni, che vanno poi a essere strumentalizzati dalla politica. Saranno percorsi e passaggi che certamente analizzeremo in questa nebbiosa giornata tipicamente autunnale del 25 ottobre, venerdì. A proposito di nebbie, io darei attenzione in partenza al porto delle nebbie. Al Parlamento europeo passa il no alla riapertura dei porti alle ONG. La risoluzione del centro-sinistra e dei Verdi respinta per 2 voti. Così il manifesto comincia. Decisivi 4 socialisti che votano contro l'astensione dei 5 Stelle. Grillini a difesa dei decreti sicurezza. Salvini, che intanto certamente questi producono nuovi clandestini. Da pagina 2 a pagina 3 l'approfondimento. Strasburgo respinge le ONG, la risoluzione porti aperti non passa, bocciata per 2 voti la proposta di centrosinistra e Verdi, Movimento 5 Stelle si astiene dal via libera al muro alzato, da destra i sovranisti. Questo è quello che riporta appunto il manifesto. Sarebbe stata una situazione certamente diversa quello che è stato portato avanti già da tempo dal centrodestra, legato al respingimento, non fa altro che aumentare una grave situazione per quanto riguarda l'aspetto di migrazione, migrante, e certo le morti che aumentano nel canale del Mediterraneo, che provengono ormai da ogni parte, anche con l'allargamento dei conflitti, è purtroppo sempre più protagonista. In Europa siamo l'ago della bilancia, l'Italia non può farsi carico da sola di un problema che riguarda tutta l'Unione Europea. Certamente il manifesto così inizia di tutt'altro avviso, ovviamente sono i due quotidiani che riportano questa realtà come allo stesso modo, certo con visioni completamente diverse. Il Giornale invece a fondo pagina: Bruxelles no ai porti aperti per legge come voleva la sinistra, quindi in questo caso Gianmichè Lessin ne ha una visione come di vittoria, poi troviamo che modo c'è di festeggiare questo risultato. Il primo ad esultare è Antonio Tajani, la sua voce al telefono è il tono di chi descrive uno scampato pericolo, ecco, per dire, o meglio una fugata calamità europea capace di consegnare alle ONG il controllo dei flussi migratori degli sbarchi sulle nostre coste. Pensate, spiega l'ex presidente del Parlamento europeo, siamo riusciti a respingerla per soli due voti. Se l'Aula di Bruxelles avesse confermato la risoluzione approvata lunedì da sinistre liberali nella Commissione Libertà Civili, le navi ONG sarebbero state equiparate alle forze dell'ordine, no? Dovrebbero essere protette, fra l'altro. In pratica Frontex, l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere, continua Tajani, avrebbe dovuto trasferir loro tutte quelle informazioni riservate che attualmente sono a disposizione di guardia costiera e guardia di finanza, corpi analoghi. Avremmo dato notizie e dati segreti, organizzazioni di cui non conosciamo assolutamente nulla. E c'è ovviamente un bastonare, già di per sé quanto mai l'immagine attinente, il can che affoga, o almeno chi lo va a salvare, mettendo insieme in un contesto così ampio, di spettro così allargato, situazioni che sono vicine, sono attente, come quelle di cui vi abbiamo messo sotto i riflettori contenuti poc'anzi, e anche quelle che purtroppo invece non sono proprio così allineate. Ma di certo fare di tutto un contenuto quel calderone per annebbiare ancora di più la situazione ONG e migranti, il Giornale certamente ne fa partita. A Strasburgo sconfitti socialisti e liberali, bocciata per due voti la risoluzione che dava loro pieni poteri in mare, Tajani dichiara pericolo scampato. Caporetto sinistra, i popolari alleati dei sovranisti, decisiva l'astensione a sorpresa dei 5 Stelle. E quindi poi viene identificata, caro, la sconfitta, il Parlamento Europeo ha respinto la risoluzione sui porti aperti alle navi delle ONG con 290 voti contrari, 288 a favore, 36 invece sono gli astenuti. Questi dati che vengono riportati anche dal Giornale in maniera dettagliata. In questo caso troviamo la notizia, andando a sfogliare magari dagli altri quotidiani che, come vi ho detto, sono più attenti per quanto riguarda i fatti di cronaca e poi dopo riportati in confronto alla politica interna, di cui parleremo tra poco. La parte di esteri è quanto mai anche in questo caso estesa, sia dalla Repubblica che dal Corriere della Sera. Abbiamo letto il Giornale nei titoli riguardante la situazione dei migranti, ma soprattutto dal Manifesto. Dal Manifesto si prosegue nel dettaglio: da 5 giorni in mare con 104 migranti, oggi comincia il 5° giorno a bordo dell'Ocean Viking per 104 migranti salvato al largo dalla Libia dai volontari dell'ONG francese SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere. La nave si aggira a poche miglia da Linosa, l'isola di Linosa, in acque internazionali. Ieri le condizioni meteo sono peggiorate, i naufraghi stanno soffrendo per i venti forti e il mare agitato. Molti hanno la nausea e il mal di testa, la maggior parte di loro non riesce neppure a mangiare. Questa è la condizione, no? L'Ocean Viking ha chiesto l'assegnazione di un porto a Italia e Malta, ma per ora senza risposta, rifiutando Tripoli. Sono giorni che attendono di ricevere l'assistenza a cui hanno diritto, ha commentato Erasmo Palazzotto di Sinistra Italiana. Cosa aspettano le ministre De Micheli e Lamorgese ad assegnare il POS come prevedono le leggi internazionali? E questo si chiede appunto. Migranti, è stato presentato ieri come ogni anno il dossier statistico sull'immigrazione a livello nazionale, emerge che sono 140.000 nuovi invisibili, migranti senza permesso di soggiorno, confinati ai margini dell'illegalità per effetto dei decreti sicurezza. I 530.000 stranieri irregolari sistemati a inizio 2018 in Italia lieviteranno entro il 2020 oltre 670.000, ma in Emilia Romagna i migranti sono parte integrante e irrinunciabile della forza lavoro, come ha spiegato il ricercatore Andrea Stuppini. È stato intervistato, è stato contattato da noi per Radio Città Fujiko da Sara Spimpolo, sentiamo le sue parole. In Emilia Emilia-Romagna su 2 milioni di occupati, gli stranieri sono 250.000, quindi esattamente il 12,5% del totale. Rappresentano un contributo importante all'economia e alla società regionale perché versano 1.400 milioni di tasse, 1.500 milioni di contributi all'INPS. Hanno uno stipendio medio di 1.100 euro al mese, del 24% inferiore a quello degli italiani residenti in Emilia-Romagna a causa delle mansioni che svolgono, che sono quelle prevalentemente di lavoro manuale. Infatti sappiamo che sono importanti nel lavoro di cura degli anziani, nell'edilizia e nell'agricoltura. Il 90% degli stranieri sono occupati dipendenti e il 10% lavoratori autonomi in aumento rispetto all'anno precedente, mentre nel 2017 i lavoratori autonomi italiani in Emilia-Romagna sono in diminuzione. Lei ha detto che ci sono molti migranti che sono sovraistruiti rispetto al lavoro che fanno. Sì, 40% dei lavoratori stranieri hanno un titolo di studio superiore alle mansioni che svolgono. Sappiamo che molti di loro sono laureati o diplomati nel paese di origine e qui da noi si adattano a fare lavori che sono prevalentemente manuali, a partire da quello importante delle badanti di cura, del lavoro di cura per gli anziani. Per quanto riguarda i dati fiscali, possiamo dire quindi che gli immigrati sono più un beneficio che un costo? Sicuramente, se un immigrato lavora, quindi è un occupato eccetera, il suo gettito fiscale e contributivo è superiore a quello che lo Stato spende in servizi per quanto riguarda la sanità, la scuola, i servizi sociali e così via. Sappiamo che l'Italia è uno dei paesi che ha un welfare prevalentemente orientato verso gli anziani, anche l'80% della spesa sanitaria va alle persone che hanno più di 65 anni, e quindi gli immigrati che hanno 35 anni di media sono dei benefattori, diciamo così, del sistema fiscale dell'Emilia Romagna, nel senso che versano più di quanto ricevono. Segna stampa di Radio Città Fujiko. 'Penne di classe e piume d'oca. E dopo aver preso parti ben distinte in partenza di questa nostra rassegna stampa, ci ritroviamo sui giornaloni. Intanto ringrazio Sara Spimpolo per l'intervista a proposito dell'argomento di apertura sui migranti. E passiamo, come dicevo, ai titoli principali, dal Corriere della Sera e Repubblica, per poi concludere con la stampa. Corriere della Sera, caso di cronaca, Luca ucciso per uno zainetto. Aveva 24 anni, difendeva la ragazza, lei un colpo ed era a terra, caccia a due italiani. Pensate se questi non erano italiani, cosa poteva succedere, no? Intanto scatta lo scontro politico, perché ovviamente come si cavalca la vicenda da parte di Salvini con l'accusa, il governo non dà sicurezza, e Conte dice miserabile speculare su una tragedia. È morto per difendere la fidanzata da una rapina, Luca Sacchi, 24 anni, personal trainer, è stato ucciso mercoledì sera a Roma in zona Colli Albani, davanti a un pub. Luca, atterrato il primo dei due aggressori, stava per bloccare gli altri, che gli ha sparato alla nuca con un revolver. È crollato sotto gli occhi di Anastasia, picchiata con una mazza. I carabinieri sono alla ricerca di due italiani ed è già scontro politico. Salvini dice sdegno per una città insicura, Conte miserabile speculare su una tragedia. La parte che prende approfondimento da pagina 2 a pagina 3, con tanto di ricostruzione della vicenda. Anastasia, lo shock e il dolore, ha reagito e li ha fermati. Un attimo dopo era a terra, eravamo stati al pub con i nostri amici. Dopo l'aggressione, certamente dopo l'uscita dal pub, il ragazzo che perde la vita per un colpo di pistola. Questo evidenzia tante altre realtà dove magari invece che prendere subito la parola per salire in cattedra, per accusare o anche dall'altra parte, se vogliamo, per giustificare, direi che l'unico motivo è quello di capire perché, soprattutto per persone giovani, vi sia una situazione del genere di aggressione, di violenza, di rapine, quella che invece viene definita una vita normale, che poi alla fine è la parola che ci fa più paura, probabilmente. Una vita normale, una morte assurda nelle città dei microcrimini, tra famiglia, palestra, posto di solidarietà e negozianti aggrediti. Questo non è un posto sicuro. Ai miei figli dico sempre di non parlare con nessuno, come dicevo, ecco appunto, certo che creare dei ghetti, no? La partenza subito di divisione, di paura, e creare quella che è separazione invece che motivo di condivisione e dialogo, poi crea sempre di più motivo di aggressione, precarietà nel lavoro, povertà, solitudine e scatto di inarrestabile e in questo caso irrecuperabile violenza. La Repubblica, anche per lei titolo principale, con un capitolo Roma disperata e Salvini all'attacco. Ecco, la risposta di Conte, miserabile speculazione, l'analisi e il racconto di Fabio Tonacci, la capitale a mano armata. Ha difeso la fidanzata dallo scippo fuori da un pub, colpito alla testa, in fuga lo sparatore e il suo complice. In città aumentano rapine e aggressioni, una violenza legata soprattutto al mercato della droga. Altra realtà che viene vista in un certo modo, sapete bene, no? Come viene analizzata, come viene trattata, come viene così, magari messa da una parte più volte, con indecisioni, con prese di posizioni ferme, ma che ritardano sempre di più determinati percorsi che dovrebbero allontanare questo dalla malavita, dallo spaccio e quant'altro, mentre invece poi per scatenare sempre di più situazioni di violenza. 24enne ucciso con un colpo alla testa, ha reagito ai banditi che avevano rapinato la sua fidanzata, agli amici è stata un'esecuzione, caccia due giovani, i testimoni parlavano con accento romano. Quindi dalle prime immagini, tra virgolette, dalle prime dichiarazioni, sia la realtà di due ragazzi italiani. Più rapine e aggressioni, la nuova Roma criminale incattivita dalla droga, in città i reati sono in calo ma aumentano furti violenti e tentati omicidi, e la lotta per lo spaccio colpisce gli innocenti, da Bortuzzo a Cercello. La polemica, è leader della Lega, ma il governo a 5 stelle e tagli disastrosi, il premier lo definisce invece affermazioni dette da un miserabile. La sindaca Raggi vicina alla famiglia, questi criminali vanno arrestati e puniti con severità, e il comune pensa al lutto cittadino. Non ci sono più bande, la capitale è in balia di ragazzi fuori di testa, sì, ma non è che la creazione e la sicurezza che dà la criminalità organizzata sia una giustificazione, come assenza dovrebbe essere tutt'altro. È la mancanza di spazi dove ci siano possibilità culturali, è la mancanza di lavoro sicuro e non precario, è la mancanza di dialogo con i giovani, probabilmente la realtà che più poi porta ad essere la differenza e la ghettizzazione con altre culture. Ce ne sono di motivi che abbiamo già detto più volte. Intanto telecamere, intanto muri, intanto quello che più ne ha più ne metta per farci sentire in caserma, ma a quanto pare non certo questo è il sistema per evitare delle manifestazioni che, definite in maniera da eufemismo, tragiche. Oggi abbiamo più telecamere in giro per la città, ma non abbiamo più un tessuto sociale su cui si manda in mente un volto, un nome, esattamente quello che viene riportato a pagina 4 da Repubblica, da Carlo Bonini. Conosco la strada e fidatevi, avere di fronte qualcuno che a luna di notte si è già fatto l'inverosimile è una bomba, di certo bisognerebbe evitare di arrivare a questo, ecco, più che altro. La Stampa di Torino invece le mette con fotografia a centro pagina, i due giovani che poi riporta subito nelle prime pagine con l'attacco strumentale, lite dopo l'assassinio del giovane romano, l'ex ministro contro il governo che dice taglia i fondi, ma i numeri smentiscono un'emergenza nella capitale, omicidi inferiori sia a Londra che a Milano. Certo non è una conta, perché uno ne sarebbe già uno di troppo, ovviamente. Alfonso Sacchi, il papà del ragazzo al quale è stato tolto il bene più grande, balordi assetati di violenza, me l'hanno ucciso neanche a 25 anni, spero li prendano presto. È la rabbia che quanto mai giustificabile da parte di questo padre che ha perso il giovane figlio. Si volevano bene davvero, erano molto uniti, stavano insieme da oltre 5 anni, era un pezzo di pane alto, muscoloso, ma un ragazzo con il cuore tenero, buono e generoso. Queste appunto le testimonianze da chi, come ho detto, ha perso il bene inestimabile. Il Fatto Quotidiano: giovane difende la fidanzata scippata e viene uccisa, per Salvini è colpa del governo. Ecco, direi che questa è la sintesi probabilmente che mette insieme come Salvini possa cavalcare subito questa situazione costantemente in campagna elettorale e in maniera propagandistica. Il Fatto Quotidiano, proseguo poi con Il Resto del Carlino, che certamente per i fatti di cronaca è ferrato, che almeno per quanto riguarda l'approfondimento più vicino agli aspetti di contorno è quanto mai protagonista, e per le testimonianze che arrivano sui singoli episodi, certo, è, diciamo così, non so, i genitori danno l'ok a donare gli organi, i clan e la droga in questo caso, e si prosegue anche dal Resto del Carlino, ovviamente sempre con una visione carlinata delle cose che vi ho appena elencato e vi ho appena detto. Con questo, pensate, con cosa dobbiamo aprire, con quale collegamento, no, dobbiamo aprire le situazioni legate alla politica interna, pensate, questo è un altro evidenziatore di come programma politico, percorsi, dibattito siano sempre più poveri, se quando si parla di politica si parla di cronaca o si parla di economia e finanza, ecco, per dire, no? O almeno queste due realtà che la dominano o che ci fanno da ponte per collegarci poi a quello che sta succedendo o a quello che non sta succedendo. Allora restiamo appunto sulla stampa, intervista al leader del Carroccio, premier nel panico, manovra, spunto una clausola, salva Conti, Salvini dichiara Umbria, trappola per Conte, partiti di governo per la prima volta insieme a un comizio, ma Renzi non raccoglie l'invito di Di Maio. Questo è un altro motivo, come posso dire, che rende, non dico chiara, però insomma ci dà l'idea di come queste spaccature siano continuamente presenti all'interno anche della nuova formazione, di come Renzi crede di essere, o certamente prova di essere, nuovamente importante ago della bilancia per tornare a essere, adesso si dice, il competitor, no? Dell'altro Matteo, per cui Conte con PD e Movimento 5 Stelle per la sfida Umbra c'è, per cui Italia Viva invece non c'è, l'iniziativa con Zingaretti, Di Maio e Speranza. Salvini dice li asfaltiamo, l'Unione Europea ora più amica, no, è soltanto una favola, comizio a Perugia con i governatori del nord. Civico Vincenzo Bianconi di Perugia, imprenditore. La senatrice invece, per quanto riguarda il centrodestra, Donatella Tesei, 61 anni, parlamentare della Lega dal 2018, è stata sindaca capo di una maggioranza di centrodestra a Montefalco in provincia di Perugia. Vediamo anche il giornale che, dopo aver dato la sua attenzione alle tasse, alle tasse, alle tasse che colpiscono sempre in continuazione, porta l'attenzione a sua volta invece a un caso di media e politica per quanto riguarda gli interni. Particolare, leggiamo: sessismo e disprezzo, la Meloni cresce e la Repubblica la infanga, leader di Fratelli d'Italia nel mirino del quotidiano, burina ed estremista e lei li querela. Come attento il giornale improvvisamente per i termini, per l'occasione il giornale dimentica il rispetto del diverso e della donna. Queste sono parole che vengono dette dal pulpito del giornale di Sallusti, insomma. Prendiamo nuovamente, riniziando il giro invece, riguardante la politica interna, al Manifesto. Oggi Di Maio, Zingaretti e Speranza Narni, c'è anche il premier, il leader di Italia Viva, no, Umbria, palco giallo-rosso senza Renzi. Andiamo a pagina 4, dove appunto il Manifesto ci parla delle vicende di politica interna, prima iniziativa dei leader alla vigilia del voto umbro, ma per parlare di manovra. Anche noi tra pochissimo parleremo di manovra, sempre restando sui quotidiani principali. Magari lo facciamo direttamente dal Sole 24 Ore, che tra economia e finanza indubbiamente ferrato, seppur vicino a Confindustria. Stacco musicale, quindi torniamo tra pochissimo alla rassegna stampa di Radio Città Fujiko sui 103.1. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Play safe, take my chance. Segna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. Dieci e tre minuti, tornando in diretta, appunto vi parlavo del Sole 24 Ore, dal foglio rosato vicino a Confindustria verso la manovra, detrazioni più tasse per redditi alti, interessati circa 300.000 contribuenti che dichiarano più di 120.000 euro all'anno. Oltre questa soglia gli scontri IRPEF del 19% saranno azzerati progressivamente, in arrivo una sforbiciata ai bonus fiscali per circa 300.000 maxi contribuenti IRPEF. La legge di bilancio introdurrà un graduale azzeramento delle detrazioni fiscali che i contribuenti italiani utilizzano nelle dichiarazioni dei redditi. In sintesi, ridotte progressivamente le detrazioni IRPEF al 19% per i redditi superiori ai 120.000 euro l'anno, fino ad azzerarsi a 240.000 euro di reddito dichiarato. Il taglio non riguarderà mutui e spese sanitarie. Sorpresa nel decreto fiscale, maxi taglio da 3 miliardi alle spese dei ministeri, credito d'imposta per i post, la proposta di Bassanini, Baretta che dichiara la garanzia pubblica per infrastrutture sociali è una strada percorribile. Andiamo a vedere anche nelle prime pagine del Sole 24 Ore con questa attenzione: bonus fiscali, la riduzione parte da 300.000 grandi contribuenti, la ridotte le detrazioni al 19% per i redditi a partire da 120.000 euro, gli sconti ridotti fino ad azzerarsi a 240.000 euro, escluse spese sanitarie e mutui per la prima casa. Vediamo Il Giornale invece, che a tale proposito, come fumo negli occhi ovviamente, tutto ciò che può essere una situazione di tasse per quanto riguarda il giornale della destra, che ha sempre trovato questo motivo di attacco, e chi più ne ha più ne metta, mai attaccare i ricchi, ci mancherebbe, un gioco di prestigio, dice, il carcere per gli evasori è incostituzionale, quindi già conosciamo, no, la linea e la strada percorsa dal giornale. Si parlava di Berlusconi, che è il patron anche ed è il è l'autore di questa affermazione. Bagno di folla nella regione più rossa d'Italia, l'ex premier in campagna elettorale, la giornata del cavalier Berlusconi a Spoleto, provincia di Perugia. L'ex premier in campagna elettorale dà il meglio di sé, con il contatto con la gente, l'ironia, perché tutti vogliono farsi una foto con me adesso e non 20 anni fa, dice, si chiede, con la solita simpatica ironia, no, Berlusconi, che troviamo qui in fotografia tra pagina 2 e pagina 3 del giornale. Berlusconi vede la svolta sul carcere agli evasori, Forza Italia scrive al Colle, il leader dà la carica, mandiamo a casa il governo che massacra invece famiglie e imprese, la coalizione, Salvini merita la leadership, bene che ora consideri necessario il centrodestra. Sì che troviamo poi all'interno spaccature e non da poco, peccato che Carfagna e Brunetta abbiano disertato San Giovanni. Il partito, sono certo che nessuno dei nostri seguirà Italia Viva di Renzi, il passato ha avuto sempre contro la magistratura e tre capi dello Stato. La lamentatio di Silvio Berlusconi qua, che arriva appunto dal suo giornale. Troviamo per la manovra e per delle realtà legate appunto a questo il manifesto invece, che risponde portando altre attenzioni, come ad esempio quella sulla cannabis legale. Nasce l'intergruppo e la legge raccoglie oltre 25.000 firme. Questo anche a proposito della cronaca di quello che è successo, di cui ho dato lettura in apertura della nostra rassegna stampa a Roma, dove questo succede per la droga, questa è la giustificazione, questo e quant'altro, senza magari andare alla radice del perché e del per come. Alla Camera 50 parlamentari promuovono il testo di iniziativa popolare. Nasce alla Camera un intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis. Al presidente Roberto Fico vengono consegnate altre 25.000 firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare Legalizziamo, presentata a Montecitorio dall'associazione Luca Coscioni e dai radicali italiani nel 2016. È sottoscritta da oltre 68.000 persone, una legge che da allora giace in qualche cassetto, che non è ancora mai stata calendarizzata. Esattamente quello che ho detto in precedenza, cioè queste cose dal 2000 e non so quanto, e in concreto non è ancora stato fatto assolutamente nulla. Ma per quanto riguarda economia e finanza, il Resto del Carlino manovra, leggo anche questo, ecco, tutte le microtasse, visto che si parlava di lamentazio per la tassa, sì, non possiamo lasciare Il Resto del Carlino, poi passeremo al protagonista di economia e finanza, che è la moglie di Mario Draghi, no, è Mario Draghi. Manovra, ecco tutte le microtasse, dalla plastica alle bibite, una nota del governo, valgono 5 miliardi, poi la rettifica, non arrivano a 2. Allora andiamo all'approfondimento, pioggia di microtasse, il governo va in tilt, sugar tax, bibite nel mirino, pagano i produttori, ma chi deve pagare? Chi? Boh. Plastic tax, 1 euro in più al chilo, critiche alle imprese, compravendite, triplicati i balzelli per quanto riguarda gli immobili, digital tax, colpa ai giganti del web, in vigore da gennaio. Direi proprio che non fanno un plissé i giganti del web con le microtasse, anzi ci vorrebbero delle maxi tasse in questo caso. Giustizia penale, bollo sui procedimenti per ogni foglio, 2,4 euro, sigarette slot, stretta sul tabacco, videolotteri più care, e tutte quelle che sono queste piccole e grandi utopie negative, come quella di soldi facili per chi già ha delle problematiche di precarietà e insicurezza, come con il gioco d'azzardo, esattamente, e la ludopatia. Gli affitti, balzo cedolare secca dal 10 al 12,5%. Ma andiamo appunto, come vi dicevo, e riprendiamo il Fatto Quotidiano per economia e finanza. Il protagonista per questa giornata è Mario Draghi. Lascia la Banca Centrale Europea, pagina 10, due diversi pareri sulla sua eredità, ha salvato l'euro sfidando i falchi, ma la Germania l'ha sabotato e continuerà a farlo. Andiamo a vedere allora, da restare sul Fatto Quotidiano, e scivoliamo così a pagina 10. Ha salvato l'euro superando i trattati e sfidando i falchi, parla Francesco Saraceno, professore di economia and sciences po sulla LUIS, ha pubblicato La scienza inutile, in modo un po' contorto ha messo fine a un'anomalia tutta europea, l'impossibilità per la banca centrale di assicurare i governi contro il rischio di fallimento, ma la sfida all'austerità non è vinta, tutt'altro, Berlino ha sabotato la sua azione e continuerà a farlo, è Sergio Cesaratto che insegna politica monetaria europea dalla Università di Siena, a giorni esce, se le lezioni di economia fin dal 2014 ha evocato una politica fiscale attiva, secondata da una politica monetaria al suo servizio. La Germania non ne vuole sentir parlare, ma è l'unico per archiviare i tassi negativi. Allora prendiamo invece i titoli dei giornali, che il saluto di Draghi, lascio la BCE e non ho rimpianti, lascio a Lagarde una BCE forte e indipendente, il saluto a Francoforte del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, l'euro, ora tutti lo considerano irreversibile anche in Italia, ha proseguito, fatto del mio meglio e sul futuro chiedete a mia moglie. Questa affermazione viene ripresa più volte anche dalla Stampa e allo stesso modo da Repubblica. Finita l'era Draghi, io in politica, punto domanda, a dovete chiederlo alla moglie, la profezia di Giorgetti, pronto a guidare un esecutivo invece tecnico. Allora pagina 7 per Repubblica, chiedete a mia moglie, si chiude l'era Draghi, in futuro il Quirinale, l'ultimo discorso da presidente dell'Euro Tower, ora l'euro è diventato irreversibile, al successore Lagarde l'invito alla cautela quando si parla di politica, ai tedeschi e olandesi ripete bisogna fare di più per sostenere in assoluto la crescita di tutti. Da Repubblica, che ovviamente riprende anche lei l'argomento, ci rimanda nel spazio dedicato nello specifico all'economia e alla finanza, lo ritroviamo allora qui, l'ultima volta di Mario Draghi, da novembre Lagarde prenderà la guida alla Banca Centrale Europea, il presidente uscente, ho sempre rispettato il mio mandato, questo è quello che riporta l'economia Repubblica, e in più l'approfondimento che indubbiamente merita attenzione è su Alitalia, più tempo da Bruxelles, un mese e poi scatta l'infrazione, quindi lasciamo i saluti e pensiamo al presente, sale a 400 milioni il terzo prestito ponte, finiranno nei bilanci della famosa Bad Company. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. Coming and the cards say rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Spazio clima e ambiente, il nord del mondo sul cambiamento non cambia, siamo a pagina 6 del manifesto, i paesi ricchi snobbano l'emergenza dei paesi poveri, il piatto del fondo globale piange, l'allarme lanciato da Oxfam, gli Stati Uniti si defilano e dall'Italia nessun impegno, anche in questo caso tra le materie che più vengono lasciate da parte. La lotta al cambiamento climatico è ferma al palo, quasi da 4 anni dalla firma dell'accordo di Parigi, i paesi del nord del mondo non hanno ancora finanziato completamente il fondo globale per il clima, che dovrebbe sostenere progetti per l'adattamento alla crisi climatica nel sud del mondo, che chiaramente è il primo a subire delle situazioni gravi, e salvare milioni di vite, secondo l'Oxfam, che il 24 ottobre ha presentato un rapporto. Dall'Italia ancora nessun impegno, sostiene l'organizzazione non governativa che ha lanciato l'allarme in occasione dell'apertura del summit di Parigi sul fondo globale per il clima. In totale il fondo lanciato nel 2010 è fermo a 7,5 miliardi di euro, mentre a livello globale, spiega, nel 2018 gli investimenti in energia da fonti fossili come petrolio, gas e carbone hanno superato i 933 miliardi di dollari. Questa è anche, diciamo, la parte che ci fa da collegamento con le notizie principali provenienti dagli esteri. Iniziamo quindi dal Corriere della Sera e iniziamo il giro Brexit. Johnson ci riprova, ha chiesto il voto anticipato, Gran Bretagna deciderà il Parlamento. Andiamo a pagina 14, dove inizia il paragrafo esteri del Corsera. Johnson chiede le elezioni, la partita è in mano ai laburisti, il premier ammette che Londra non uscirà il 31 e scrive a Corbyn, ha bisogno dei suoi voti. La fotografia qui di Boris Johnson, non è riuscito a domare il Parlamento, ora prova a chiedere nuove elezioni per il 12 dicembre. Anche questa è un'altra realtà che, se restiamo a stereotipi, decisamente sembra quasi più italiota, ma vediamo che con la globalizzazione tutti i difetti sono diventati assolutamente di tutte e di tutti, tutti gli spazi. La guerra di Erdogan, da Repubblica, in un articolo di Roberto Saviano. Dopo questo piccolo paragrafo a Boris Johnson, lasciamo la stampa e prendiamo la Repubblica con la spalla di Roberto Saviano. Ha vinto Erdogan, che raggiunge il suo obiettivo, impedire la costruzione e la costituzione in uno stato autonomo curdo. Vince Putin, facilitatore nei rapporti tra Turchia e Siria. Vince sempre Putin, che con il ritiro delle truppe degli Stati Uniti è unico burattinaio in Medio Oriente. Vince in parte il sanguinario Bashar al-Assad, anche se deve accettare le truppe turche in Siria. Vince Trump per aver tenuto fede al ritiro degli Stati Uniti da quel fronte di guerra. Un risparmio per i contribuenti americani, che non sono più disposti a spendere soldi per luoghi e popoli che ignorano finanche l'esistenza. Allora abbiamo fatto tutto un giro, e chi è che perde? Bravi, indovinato, i curdi. Traditi dopo aver perso migliaia di combattenti nella guerra contro Daesh, capitale dello Stato Islamico, combattuta anche nel nostro interesse, perde Netanyahu, che sperava in uno Stato curdo non per altruismo, ma perché potesse ulteriormente dilatare le distanze tra Israele e Iran. Ma tanto a Netanyahu e la sua aviazione è concesso di tutto, per cui di certo non è quella la paura, più che altro è per il popolo curdo, sempre tra l'incudine e il martello, e dalle notizie che troviamo presenti sulle prime pagine per quanto riguarda il Medio Oriente. Altra internazionale, parte importante, è il Sud America, pagina 8, cambiamo quotidiano e prendiamo il manifesto. Fine del sogno americano alla cilena, le misure sociali promesse da Piñera, passato dalla guerra alle scuse, non bastano. Dopo i giorni alla rivolta, ieri nuovo sciopero generale. In piazza sono scesi consumatori abusati, giovani furiosi, adulti indignati, tutti indebitati, anche in modo esplosivo, da banche e retail. Voti in Bolivia, Morales verso il quarto mandato, restiamo quindi in zona, vantaggio minimo ma irreversibile, ora difendiamo la democrazia. Questo è quello che viene riportato. Andiamo a vedere sul Fatto Quotidiano, per la pagina degli esteri, invece c'è questa manifestazione, ecco, questa in piazza truccati da Joker, adesso personaggio che va per la maggiore, la disco rivolta, si balla contro i ladri. Andiamo a vedere a pagina 15, allora, poco prima di passare verso la cronaca locale, Beirut brutta rivoluzione disco, balleremo in piazza contro i ladri al governo, rivolta in musica, i giovani libanesi, qui non funziona più niente, abbiamo capito che ce la caviamo meglio da soli che con questi politici. Qua questi giovani ragazzi vestiti dal nemico di Batman che riportano motivo di aggregazione e non solo, anche di musica, giovani sempre più protagonisti in ogni parte del mondo, mentre invece spesso vengono evidenziati per i motivi di cronaca che vi abbiamo dato nella parte iniziale di questa lettura, di questa rassegna dei quotidiani odierni. Tutto iniziato nel più libanese dei modi, in un paese in cui non funziona più niente, persino gli aerei rischiano di precipitare perché il governo è incapace di organizzare lo smaltimento dei rifiuti, quindi problema degli aerei, dei rifiuti li ha riversati in una discarica accanto all'aeroporto e ora al decollo stormo di gabbiani possono finire nei motori, no? Non sono le notizie che arrivano dall'Italia, come ho detto la globalizzazione ha un po' accumulato in tutti i paesi, anche nelle disgrazie, e qui vediamo delle immagini certamente di riscossa magari da parte di nuove generazioni, seppure sempre con questi colori e questi volti colorati e motivo di incontro e perché no di divertimento, e se la protesta viene fatta in questo modo, voglio dire, certamente è originale, ricordando il personaggio che ormai è alla ribalta, giovane dimostrante con il volto dipinto da Joker a fondo pagina sul Fatto Quotidiano. Tocca la cronaca locale, abbiamo anche uno spazio di approfondimento dedicato al cross-dressing, dopodiché ci saluteremo, a tra poco. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Sometimes I wonder if I know where I'm going. I go for a walk like this. It seems I have been walking for years and years and years. And I don't know where I'm going. I hear the sound leading me on. Is taking me. Segna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. spazio alla cronaca locale che apre con un approfondimento, cioè non è che avremo lo spazio dedicato al cross dressing, anzi imparo nel dettaglio di che cosa si tratta. Intanto vi posso dire che siamo in provincia in uno spazio molto bello. Domani alla Rocchetta Mattei di Grizzana Morandi si terrà il primo convegno italiano sul cross dressing, il termine moderno con cui si definisce il travestitismo, un appuntamento per conoscere meglio il fenomeno, rompere il muro di silenzio che lo riguarda, rivendicare i diritti e tutele per le persone crossdresser. Ne abbiamo parlato con l'organizzatrice Charlotte Vermiani, sentiamo tra pochissimo le sue parole, in giusto il tempo di recuperare lo spazio di approfondimento dedicato anche a questa realtà. Un attimo solo, sta arrivando, ecco qua l'approfondimento sul crossdresser di Charlotte Vermiani. Crossdressing è il termine più moderno per definire una persona che si travestita, si veste con abiti del sesso opposto. Quindi è un termine solamente più moderno di una parola che esiste da sempre. In questo caso sono i travestiti occasionali, cioè quelli come ero io prima di diventare transgender. Questo incontro, Identità Legittime, è come dire il primo di questo genere di incontri? Sì, non è mai successo prima. Va a prendere in esame una parte del mondo LGBT che non è mai entrata dentro la sfera, nel contesto LGBT, e sono le persone come ero io e come sono tante mie amiche adesso, che sono uomini che hanno una vita sociale come tutti gli altri, quindi un lavoro, una famiglia, dei figli, insomma tutto quello che hanno le altre persone, solo che hanno di natura, fin quando erano piccoli, fin dalla nascita probabilmente, perché siamo tutti uguali, l'assoluta necessità di esprimersi anche al femminile, come abbigliamento e non come sessualità, e questa è una condizione di nascita per quello che mi riguarda. Ci raccontiamo la stessa storia anche se non ci siamo mai viste. Fin da bambini abbiamo questa esigenza che continua durante l'arco della vita, ha delle trasformazioni, va a mutarsi, a cambiare, ma quello che conta è che abbiamo la necessità di esprimerci al femminile, ma non riusciamo a farlo perché ovviamente ci sono un sacco di cose che ci fanno paura, la famiglia, il posto di lavoro, la vita che hanno queste persone che gli impedisce di far questo, ma ne sono obbligati. Sono obbligati al punto che lo devono fare lo stesso, rischiando tanto. In questo incontro, diciamo, risponde a due esigenze: da un lato quella di raccontare chi siete e dall'altro anche quella di rivendicare diritti. Cominciamo con il primo punto, insomma, perché ho visto che a questo incontro voi parlerete anche con psicologi, insegnanti. Sì, qui ci sono persone esatto del genere che hanno a che fare con i bambini, ci sono parte dell'area politica di Bologna, c'è una bella partecipazione a questo convegno. Noi, a differenza dei ragazzi che trovano da subito la loro identità come transgender, come transessuali, come qualsiasi cosa, e già da quello che è l'adolescenza riescono a identificarsi, noi no. Noi di fatto abbiamo questa esigenza di esprimerci al femminile, che abbiamo ben prima dei 10 anni d'età. Io ho cominciato ben prima, però continuiamo a essere persone eterosessuali, quindi ad avere rapporti con le donne e non cerchiamo altro. E continuiamo ad avere questa necessità obbligata, ripeto obbligata, non è una questione di una scelta, di un mettersi in mostra, di un gioco, di una perversione, è un obbligo di indossare abiti femminili, e questa cosa va poi a trasformarsi nell'arco degli anni fino ad arrivare al punto di doverle esternare fuori. E se non lo fai diventa impossibile, perché non riesci a pensare ad altro, diventa sempre più opprimente fino al punto che lo devi fare. Quindi questo, noi siamo così, siamo uomini che all'apparenza sembriamo transessuali come gli altri, ma di fatto non lo siamo. Non siamo mai stati considerati da nessuno, siamo sempre stati lasciati a noi stessi, e i problemi potrebbero essere molto grossi. Molti di noi quasi tutti hanno bisogno di uscire così, di mostrarsi al pubblico così, ma non hanno nessun tipo di rapporto sessuale, teoricamente non fanno assolutamente niente di male, ma se vengono pescati potrebbero essere incolpati di quello che non hanno mai fatto. Dopo ci si troverebbe una persona a doversi difendere da una moglie, da dei figli magari già grandi, terrorizzato, incapace di difendersi forse dal terrore, dalla paura, quando gli dicono: se non facevi niente di male perché non ce l'hai detto? E questo non sa più come difendersi, adesso è in balia di se stessa questa persona. Di qui infatti c'è anche il riconoscimento di diritti che chiedete, quindi? Sì, almeno avere un aiuto in questo caso, non tanto del coming out quanto di essere scoperti, e anche perché C'è, e questo io ne sono sicura, intanto perché non ho mai avuto obiezioni e critiche da nessuno, e ne sono sicura perché mi sono infiltrata per 2 anni nel mondo della notte, dei locali dove un po' si trovano queste persone, come PR andavo a fare apposta invece per vedere, prendere informazioni, e quindi i locali della notte, quindi ritrovi tra di loro, cene che facevano, tutto quello che aveva a che fare con queste ragazze crossdresser occasionali, cioè lo facevano quando potevano farlo, ma come obbligo, ripeto, potrebbero anche verificarsi casi dove persone senza scrupoli si possono approfittare di questa loro debolezza e di questo loro essere lasciate a loro stesse. Tanti anni di doppia vita, di tensione, di paura, portano queste persone a vedere una realtà distorta e di finire anche proprio vittima di persone che hanno bisogno di loro, perché hanno dei soldi, perché pagano molto, hanno bisogno di spenderli, e quindi di vendergli prodotti da poco a tantissimi soldi, gli fanno pressione. C'è sempre il comune in tutti i settori dove vengono fatte questi ritrovi, queste cene, queste uscite, dell'essere isolate, le portano in posti isolati dove rimangono tra di loro e sempre tra di loro, senza mai contatti con altre persone, persone che sono impossibilitate a difendersi perché la paura di essere pescate a casa le fa stare ferme dappertutto, ed è questo il mio grido. Se ci fosse qualcuno che le prendesse in considerazione come persone che hanno queste esigenze, questa cosa, che sono così deboli, ecco che una protezione non gli farebbe male. E concludiamo quindi ricordando che domani alla Rocchetta Mattei di Grizzana Morandi si terrà il primo convegno italiano sul crossdressing, termine moderno con cui si definisce il travestitismo, grazie all'organizzatrice Charlotte Vergnani ai microfoni di Radio Città Fujiko. Chiudiamo con 2 notizie locali. BioOn, 10.000 pronti a far causa, l'indagine, partecipazioni e accordi nel mirino della finanza, congelato il titolo, lunedì vertici davanti ai giudici. Più che altro il problema sono i lavoratori, in fumo 400 milioni, risparmio risparmiatori nel panico, oggi la prima assemblea dei lavoratori. Chiudiamo con Bibbiano a pagina 7, la commissione regionale, ci sono falle, Forza Italia ovviamente sbotta dopo aver cavalcato il polverone, i servizi certo magari vanno come deve essere controllati, ma il famoso sistema Bibbiano non c'è. Alle 10:31 minuti dichiaro chiusa la rassegna stampa dei 103.1 di Radio Città Fujiko. Vi do appuntamento ovviamente alla prossima, augurandovi un buonissimo weekend. Tra poco Elisa Iacobucci con Chi fa da sé fa per te, a seguire Jazz Live con Valeria Sacco. Buona giornata, buon ascolto su Radio Città Fujiko.